La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è oggi dedicato alla Three Days of Peace and Music, più famosa della storia, il grande concerto di musica rock di Woodstock, di cui il 15 agosto si celebra il 40° anniversario. Ospite ai nostri microfoni Peppino Ortoleva, docente di storia dei mezzi di comunicazione di massa all'Università di Torino. Il 15 agosto di 40 anni fa cominciavano i 3 giorni di pace e musica di Woodstock, destinati a entrare nella storia come il più grande evento di musica rock, un evento che nel corso degli anni acquisì via via un significato e un valore ben più ampio di quello musicale, sociologico, culturale, che va anche al di là dell'evento musicale appunto vero e proprio. Vi parteciparono quasi 1 milione di giovani accorsi ad ascoltare 32 musicisti e gruppi tra i più noti d'allora, dall'alba fino al tramonto, una 3 giorni all'insegna della liberazione sessuale e dell'utopia esistenziale, tra ingenuità ed eccessi che caratterizzarono un'epoca, l'epoca che aveva preso le mosse dalla stagione della contestazione studentesca, delle rivendicazioni politiche e sociali che dagli Stati Uniti si erano trasferiti in Europa all'insegna della rivolta contro le gerarchie sociali e i valori dominanti. La musica fu un potente fattore di aggregazione delle proteste dei giovani e del desiderio di cambiare. In realtà, nulla di tutto ciò era nei propositi degli organizzatori, che nel paesino di Woodstock, almeno inizialmente, intendevano costruire soltanto uno studio di registrazione. Dopo aver letto sul New York Times l'annuncio della società Challenge International, disposta a finanziare nuovi progetti, fondarono la Woodstock Ventures. Insieme ai nuovi soci, decisero solo successivamente di abbandonare l'idea iniziale, impegnandosi invece nell'organizzazione di un festival musicale e artistico. Il problema fu trovare una località disposta ad accogliere una massa via via crescente di giovani. Dalle iniziali 50.000 persone attese, in breve, in prevendita vennero richiesti 186.000 biglietti. Dopo il rifiuto di varie autorità locali, si trovò per caso un grande spazio a Bethel, nella contea di Sullivan, una cittadina rurale 69 chilometri a sud-ovest di Woodstock. Decisivo fu l'intervento del figlio di un proprietario terriero, che convinse il padre sulla bontà dell'iniziativa. Quest'ultimo accettò di affittare il terreno per $75.000, mentre altri $25.000 furono versati come affitto a proprietari confinanti per ingrandire il sito del festival. Il resto è la storia che ha riempito, come sappiamo, i libri di sociologia, insieme alle esibizioni di Crosby, Stills, Nash & Young, Ravi Shankar e Santana, Grateful Dead e The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, John Baez e Janis Joplin, Jimi Hendrix e molti altri. This title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. What would you do if I said had a tune? Will you stand up on your garden wheels? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, have you back? Abbiamo in linea il professor Peppino Ortoleva, che è docente di storia e teoria dei media all'Università di Torino. Grazie, professore, per aver accettato il nostro invito. Cosa fu Woodstock, professore? Ma Woodstock fu un evento, prima di tutto, fu un fatto. Era un periodo in cui di fatti e di tipi nuovi di fatto si pensava e si parlava molto. C'era stato il boom in America nei primi anni 60, in Europa un po' più avanti nel tempo, del sit-in, che significava l'occupazione in pratica dei luoghi pubblici, delle università e così via, ma poi c'erano stati anche tanti altri nomi, tra cui love-in, posti dove amare, essere amati stando e occupando quel luogo, e poi una serie di altri eventi che tutti sottolineavano in qualche modo la presenza delle persone, il loro raggrupparsi e con ciò stesso segnalare una, non solo una presenza, ma un'appartenenza di gruppo. Da questo punto di vista si può dire che Woodstock è insieme il momento culminante di un fenomeno molto anni 60, che è la esplosione del rock, non più semplicemente come ballo e come fermento giovanile, ma come forma di cultura che si considerava in qualche modo autosufficiente, e al tempo stesso appunto questo bisogno di stare insieme, di occupare insieme uno stesso spazio. Per certi versi Woodstock è il più famoso, anche perché il più riuscito, sia sul piano dei numeri, sia sul piano della risonanza internazionale, eccetera, di una serie di eventi. Un altro che sarà poi nel 70, il grande concerto di massa dell'isola di Wight a largo delle coste inglesi, diverse feste italiane, per esempio a Licola, vicino a Napoli, negli anni 70, eccetera, sono tutti parte della stessa tendenza. Che però era già, si esercitava su altre modalità comunicative già rispetto a Woodstock, professore. Tratto un film famoso, Woodstock, tre giorni di pace, amore e musica. Da Woodstock furono tratti moltissimi dischi dei diversi gruppi che vi parteciparono, che erano i gruppi più famosi all'epoca della scena rock, come si suol dire, internazionale. Woodstock comunque fu soprattutto la celebrazione del fatto più nuovo, a mio vedere, degli anni 60, che è generalmente sottovalutato, cioè il grandissimo peso dell'amplificazione elettrica nel creare forme di aggregazione collettiva. Cioè sostanzialmente c'erano dei gruppi che raggiungevano con la loro musica centinaia di migliaia di persone, le quali danzavano letteralmente all'unisono grazie alle casse di questi altoparlanti che le raggiungevano dappertutto. Poi alcuni di questi gruppi suonavano con questa amplificazione della musica relativamente tradizionale, qualcuno faceva della musica totalmente innovativa. Se chiediamo a gran parte delle persone della mia generazione, io ho 60 anni, qual è il pezzo musicale che più facilmente ricordano di Woodstock, le risponderanno l'inno nazionale americano suonato da Jimi Hendrix all'alba. Esatto. Perché era Jimi Hendrix, sì. Ma anche perché era l'inno nazionale americano distorto dall'amplificazione elettrica. Quindi la tecnologia al servizio della musica ante litteram, potremmo dire. Tecnologia. In fondo il suono, le tecnologie del suono sono tre: le tecnologie di registrazione, le tecnologie di trasmissione e le tecnologie di amplificazione. In quel caso l'amplificazione ebbe il suo estremo successo. Poi Woodstock venne registrata, venne trasmessa, ma per quelli che erano lì quello che contava era soprattutto l'amplificazione, il fatto che c'erano delle casse, degli altoparlanti, eccetera, che consentivano a tutte queste persone di far parte di un'unica comunità di ascolto e di danza, naturalmente, perché l'amplificazione non si sente solo con le orecchie, si sente anche con le gambe. Comunque, professore, Woodstock è un evento che è collocabile pienamente negli anni 60, lei lo diceva poc'anzi, oggi sarebbe difficilmente replicabile a distanza di 40 anni. soprattutto perché c'è già stato. Sarebbe difficilmente replicabile perché sembrerebbe comunque una brutta copia. E furono 3 giorni, ci andò letteralmente una parte considerevole della gioventù americana, tant'è vero che poi Abby Hoffman scrisse un libro intitolato Woodstock Nation, la nazione di Woodstock, cercando di teorizzare che Woodstock aveva tirato fuori la nazione della controcultura. In realtà, da un certo punto di vista, però, Woodstock fu anche l'inizio della fine. Il movement americano, a differenza di quello europeo, nel 70-71 cominciò il suo declino e soprattutto a Woodstock circolò una quantità di droga assolutamente impressionante. Pochi all'epoca se ne accorsero, ma i risultati dopo furono piuttosto pesanti.